11 novembre. Quando è arrivato il grigiore di novembre, sospendendo a basse nuvole scure soffici sui solchi bruni dei campi arati e sul verde smeraldo del grano invernale, quella pesante immobilità ha riportato il mio cuore a una sconsolata nostalgia delle cose piacevoli dell'infanzia, alla fede nella saggezza infallibile delle persone grandi, una fede che ti coccola, ti dà conforto, ti scalda. È un gran bisogno di qualcosa a cui appoggiarsi, una stanchezza profonda dell'anima di fronte al dover essere indipendenti e responsabili. Guardandomi intorno in cerca di sostegno e conforto, mentre mi trovavo in questo stato d'animo transitorio, il vuoto del presente e la vacuità del futuro mi hanno riportato al passato e ai suoi fantasmi. Perché non sarei dovuta tornare nel luogo dove sono nata e dove ho vissuto tanto a lungo, nel luogo dove sono stata meravigliosamente felice e squisitamente afflitta, così vicina al paradiso, così a un passo dall'inferno, così in alto su una nuvola gloriosa e così in basso, nell'abisso marino della disperazione che si chiudeva sopra la mia testa. Adesso ci vivono dei cugini alla lontana, a cui voglio bene come si può volerne a chi comanda in quella che prima era la tua casa. Questi cugini sono persone pratiche, hanno estirpato le aiuole di fiori e hanno piantato cavoli al posto delle rose. E nonostante negli anni trascorsi dalla morte di mio padre, io abbia tenuto la testa risolutamente dritta, tanto dritta da farmi venire il torcicollo, rifiutando altezzosamente di ascoltare ripetuti inviti da parte loro, affinché tornassi in visita nella mia antica dimora, queste giornate di novembre, tristi e spente, mi hanno riportato ai tempi andati, con un'insistenza che non sopportava di essere messa a tacere. Perciò mi sono risvegliata dalle mie cupe meditazioni scoprendo che soffrivo di nostalgia. Litigare con i cugini è sciocco ma naturale, tanto più quando non hanno colpe e sono semplici vittime del caso. È forse colpa loro se io non sono un maschio e ciò mette a loro disposizione le scarpe che avrei dovuto indossare io. So bene che non hanno colpe, ma la loro non colpevolezza non me li fa certo amare di più. Un'altra stupida donnetta, sbottò mio padre al momento della mia nascita. Aveva già 3 figlie e io ero la sua ultima speranza. Da allora sono sempre stata una stupida donnetta e per questo motivo per anni non ho avuto rapporti con i cugini proprietari. E sempre per questo motivo, l'altro ieri, sopraffatta dalla fiacchezza sentimentale causatami dal clima di novembre, il desiderio intenso di ricongiungermi con la mia infanzia ha mandato l'orgoglio a gambe all'aria e mi ha fatto partire, senza preavviso né invito, per un pellegrinaggio. I pellegrinaggi mi sono sempre piaciuti e se fossi vissuta nel Medioevo avrei passato buona parte della mia vita sul cammino per Roma. I pellegrini si lasciavano alle spalle ogni preoccupazione, ogni ansia riguardo le loro ricchezze o debiti. Salutavano la moglie che li assillava e i figli che li disturbavano per partire soli con i propri peccati. Voltavano le spalle al dovere e si mettevano in viaggio con quell'unico fardello e chissà, persino con animo allegro. Il mio cuore sarebbe stato sicuramente allegro se fossi partita un mattino di sole, respirando il profumo della primavera, sostenuto dall'approvazione di chi rimaneva accompagnata dalle benedizioni della mia famiglia. Ogni passo mi avrebbe allontanata dai soffocanti doveri quotidiani per espormi al vasto mondo, alla freschezza e magnificenza di un mondo libero, povero, penitente eppure felice. Ancora oggi sogno di camminare per settimane insieme ad amici, persone a cui voglio bene, vagando con agio da un luogo all'altro, senza itinerario o scopo, libera di andare avanti per tutto il giorno, di ciondolare nello stesso posto come più mi piace. Tuttavia, i 2 scogli contro cui sono sempre trafugati i miei progetti sono da un lato il bagaglio, problema ignorato al semplice pellegrino, e dall'altro l'immancabile biasimo dei parenti, ai quali ripugna il camminare e le sieste all'ombra di una siepe e che hanno sempre ostacolato i miei progetti sul nascere, esclamando: pensa che brutto se incontrassi qualcuno che conosci. I parenti di 500 anni fa si sarebbero limitati a dire: come sei devota. Anche a mio padre piacevano i pellegrinaggi, è evidente che ho preso da lui, e da piccola mi ha sempre incoraggiata, portandomi con sé quando andava devotamente a visitare i luoghi dove aveva vissuto da bambino. Ci siamo recati spesso alla scuola che aveva frequentato a Brandeburgo e abbiamo trascorso piacevoli giornate a passeggiare per la città vecchia ai bordi del lago, uno dei laghi che scandiscono la verde vasta pianura. Molte volte siamo andati anche a Potsdam, dove era stato acquartierato come tenente, passando ore nei boschi che circondavano la città e nei giardini di Sanssouci, accompagnati dal secondo volume della biografia di Federico II di Carlyle, che mio padre portava sotto braccio. E passavamo lunghe giornate estive nella casa della Marca, alla parte estrema della catena dei Laghi Blu, dove sua madre era vissuta da giovane e dove, benché appartenesse ad alcuni cugini, come tutto ciò che varrebbe la pena di possedere, potevamo vagare a nostro piacimento tra le stanze vuote, sederci nella strombatura delle finestre, mentre in attuali veneri e cupidi dipinti sul soffitto ci sorridevano sciorinando le loro inutili ghirlande sul vuoto sottostante. Mentre ce ne stavamo così, lui mi raccontava le storie che mia nonna gli aveva narrato centinaia di volte, eventi di cui quelle stanze erano state testimoni all'epoca in cui le persone attraversavano la vita danzando, tra canti e risate, e nessuno invecchiava o soffriva. In quegli anni c'era, e c'è ancora, a un tiro di schioppo dei grandi cancelli della tenuta, una locanda con davanti due tigli maestosi. Il giorno dell'arrivo pranzavamo sempre sotto gli alberi, a un tavolino con la tovaglia a quadretti rossi e blu, con i fiori di tiglio che ci cadevano nella minestra e le api che ronzavano in alto tra le fronde ombrose profumate. Mentre scrivo sul tavolo un'immagine d'epoca della casa vista dal lago, con in primo piano una barca piena di signore incipriate in crinolina accompagnato da un giovanotto che suona la chitarra. I pellegrinaggi alla casa nella Marca erano quelli che mi piacevano di più. A una bambina piccola potevano sembrare aneddoti bizzarri, ma le storie che mi raccontava mio padre, mentre vagavamo per le stanze echeggianti, quando ci sporgevamo dalla balaustra di pietre per dare da mangiare ai pesci del lago, se raccoglievamo pallide rose canine nelle siepi o se stavamo distesi in barca tra le canne in un'insenatura ombrosa, mentre lui fumava per allontanare le zanzare. Erano tradizioni di famiglia, che mi somministrava a piccole dosi, ogni volta che, lasciato da parte lo scrupolo di evitare osservazioni che uscissero dai confini delle banalità considerate sane e adatte a una fanciulla come me, cedeva all'impulso di condividere i suoi pensieri con qualcuno che ne ridesse insieme a lui. Invece, il luogo dove sarei andata nel mio ultimo pellegrinaggio era colmo dei ricordi vivi e di prima mano di tutti gli anni incantati tra la prima infanzia e la maggiore età. E più invecchio, più mi è chiaro quanto quelli tra i 2 e i 18 siano stati anni incantati. Da allora non c'è stato più nulla di paragonabile a quella meraviglia, e benché abbia dimenticato gran parte di ciò che mi è successo 6 mesi fa, di quei fulgidi lunghi anni, ho impresso nella memoria ogni minimo evento, ogni singolo giorno con insolita nitidezza. Eppure con i cugini possidenti sono stata ostinata, orgogliosa, sgradevole. Mi sono comportata cioè da vera cugina, tanto che hanno smesso di invitarmi. Si sono stancati dei miei rifiuti e mi hanno lasciata a me stessa. Insomma, non me ne sono interessata per talmente tanti anni che non sapevo neanche chi ci abitasse in quella casa. Ho lottato per 2 giorni contro il desiderio fortissimo di tornarci che mi aveva assalito all'improvviso e mi sono detta che non sarei andata perché sarebbe stato assurdo, indecoroso, sentimentale e sciocco, che non li conoscevo e mi sarei messa in una posizione imbarazzante e poi ero abbastanza adulta per aver imparato la lezione. Ma chi può prevedere le mosse di una donna? E una donna impara mai la lezione? Perciò il terzo giorno sono partita, come se piombare in casa dei cugini che fino ad allora avevo trascurato fosse la cosa più naturale del mondo, aspettandomi per giunta un'accoglienza calorosa. È stato un viaggio complicato e lungo. Nella prima parte, quando faceva ancora buio, splendevo di entusiasmo e spirito di avventura. Gioivo della prospettiva di rivedere a breve i luoghi che tanto amo. Ero colma di stupore per i lunghi anni che avevo lasciato passare dall'ultima volta che ero stata lì e il pensiero di cosa avrei detto a cugini, di come sarei entrata nella loro piccola comunità, non mi ha neppure sfiorato. Mi dominava lo spirito del pellegrino, lo spirito di chi non si preoccupa degli aspetti pratici ma si lascia portare per il mondo, godendo semplicemente delle emozioni che prova. Era un mattino silenzioso e triste, di nebbia fitta. Quando sono salita sul trenino che passa attraverso il villaggio vicino alla casa della mia infanzia, l'entusiasmo iniziale si era già esaurito. In quella fase esaminavo criticamente i cambiamenti occorsi negli ultimi 10 anni. La nebbia era talmente fitta che dai finestrini non si vedeva nulla dei paesaggi familiari, tranne pini spettrali ai bordi dei boschi. Eppure la ferrovia di per sé è un gran cambiamento rispetto ai tempi della mia infanzia, quando i quasi 15 chilometri tra la stazione e la residenza di famiglia si percorrevano in carrozza su strade sabbiose attraverso la foresta. La maggior parte delle persone considera il trenino un notevole miglioramento, benché sia un'innovazione dovuta senza dubbio allo zelo dell'energico cugino attualmente in carica. Ma chi è mai, mi sono chiesta, questo individuo per esigere comodità che mio padre non riteneva necessarie? Non è servito a nulla ripetere a me stessa che ai tempi di mio padre le ferrovie leggere non esistevano ancora e che se ci fosse stata la possibilità avremmo fatto di tutto per assicurarci un collegamento con il villaggio. Il pensiero di mio cugino, che si infilava in ciò che era mio e lo modificava a suo piacimento, mi era odioso. Ma anche questo sentimento si è esaurito e quando mi sono incamminata per l'ultimo tratto di strada, quello in salita che va dalla stazione alla casa, è iniziata la terza fase, in cui a disagio mi chiedevo cosa diamine avessi dovuto fare a quel punto. Dov'era finito l'intrepido coraggio che mi aveva spinto a partire all'avventura? Giunta in cima alla prima salita, mi sono seduta per riflettere. La casa era ormai vicinissima, ma mi serviva tempo. Eh già, dov'erano finiti il coraggio e l'allegria del mattino? La loro scomparsa era talmente definitiva che non mi restava altra ipotesi che fosse ormai ora di pranzo. In effetti, negli anni ho scoperto che i sentimenti e le virtù più nobili fuggono sgomente all'avvicinarsi del pranzo e il coraggio se la batte con particolare prontezza. Perciò ho mangiato il pranzo a sacco che mi ero portata, nella speranza che fosse ciò di cui avevo bisogno, ma consisteva in qualche panino e alcune pere gelide, che ho masticato sotto un albero al limitare di un campo, nella nebbia fitta e umida di novembre. L'erba grondava di umidità. L'albero scheletrico pure. Io ne ero inzuppata così come i panini. Sfido chiunque a mantenere alto il morale in tali condizioni. Così, mentre masticavo panini fradici, ho deplorato il coraggio avventato che mi aveva sradicato da una casa calda e asciutta, piena di persone che mi apprezzavano, per gettarmi sotto questo albero gocciolante in un campo gocciolante a ingerire un dessert di pere gelide per poi trascinarmi davanti a una cerchia di cugini impreparati e sicuramente sconvolti dal mio arrivo. Pecore giganti si stagliavano nella foschia a qualche metro dalla mia postazione, mentre il cane pastore giolava in modo irritante. Non riuscivo a capire dove fossi, nonostante sapessi con certezza che da bambina in quel luogo ci ho giocato infinite volte. Allora ho reagito, come qualsiasi donna che si trovi in una situazione non perfettamente asciutta e comoda. Ho cominciato a rimuginare sull'incertezza dell'esistenza umana e a scuotere la testa in segno di approvazione man mano che lugubri versi di poesie pessimiste mi si presentavano alla mente. A questo punto vorrei dire che se è nostra intenzione portare a termine un progetto, sarebbe auspicabile procedere nel modo sancito dalle consuetudini, soprattutto se si è una donna. Tale verità mi si è rivelata con forza allorché il rumore di una carrozza che si stava avvicinando mi ha fatto sobbalzare e arrossire. La foschia mi nascondeva e la carrozza, sicuramente stipata di cugini, è proseguita in direzione della casa. Mi trovavo in una posizione assurda. Supponiamo che la nebbia misericordiosa si fosse invece diradata, smascherandomi nell'atto di pranzare all'umido nella loro proprietà. Io, la cugina autrice di lettere brevi e altezzose, la sgradevole Elizabeth. Quella è sempre stata una stramba, me l'immaginavo bofonchiare frettolosamente questa frase, prima di accogliermi ammantati di sorrisi di benvenuto. Lo shock di essere scampata al disastro per il rotto della cuffia mi ha spinto ad alzarmi senza indugi e a seppellire i resti del mio pranzo nell'alta montagnola di terra su cui mi ero seduta, chiedendomi nervosamente quale sarebbe stata la mia mossa successiva. Dovevo tornare al villaggio, sistemarmi nella locanda e scrivere una lettera in cui avrei implorato il permesso di far visita ai cugini per poi mettermi ad aspettare la risposta? Sarebbe stata una linea d'azione discreta e sobria. L'unico rimedio decente al non aver scritto una lettera appena prima di partire. Tuttavia, le locande dei villaggi della Germania settentrionale sono luoghi tremendi e il ricordo di una locanda in cui mi ero riparata da un temporale era ancora talmente vivido che la natura stessa sembrava ribellarsi al mio proposito di soggiornarvi. Intanto la nebbia si infittiva, ma io di quel posto conosco ogni sentiero e cancello. Perciò mi è venuta l'idea di entrare nel giardino dalla porticina in fondo, rinunciando alla speranza di visitare la casa. Per quella volta mi sarei limitata a esplorare gli esterni, tanto più che con la nebbia non avrei rischiato di incontrare nessuno. In fondo, il luogo a cui tenevo di più era proprio il giardino. Immaginavo il piacere di sgattaiolare dentro per ritrovare gli angoli che ricordavo così bene e poi sgusciare fuori senza dover fornire spiegazioni, rassicurazioni, affermazioni solenni, dimostrazioni d'affetto, senza dover, in poche parole, partecipare alle conversazioni stancanti che tanto piacciono ai parenti, le parole vuote. La nebbia mi tentava. Credo che se fosse stata una bella giornata avrei fatto la cosa più assennata, andare alla locanda per scrivere una lettera conciliante, ma la tentazione era troppo forte, anzi irresistibile. In 10 minuti ho trovato il cancello, l'ho aperto non senza difficoltà e con il cuore che batteva all'impazzata mi sono ritrovata nel giardino della mia infanzia. Chissà se proverò mai più un brivido altrettanto potente di quello che mi ha scosso in quel momento. Innanzitutto stavo entrando di soppiatto in una proprietà privata, azione eccitante di per sé, ma che lo è ancora di più se la violazione riguarda una proprietà che potrebbe essere tua, anzi, che è stata veramente tua per anni. Inoltre correvo il pericolo mortale di incontrare i legittimi proprietari che non ho mai visto in faccia ma con cui ho litigato e di sentirmi chiedere con spaventosa cortesia: con chi ho l'onore di parlare, signora? Il luogo non era cambiato. Mi trovavo nel bel conosciuto intrico di sentieri umidi e misteriosi che piegano a sinistra e a destra tra i cespugli, con le impronte scure di passi recenti nel fango tra le sponde erbose. I lilà smisurati formavano ancora un tunnel sopra la mia testa. L'umidità gocciolava ancora sulle foglie fradicee dalla sporgenza del muro, come accadeva nei pomeriggi di novembre di tanti anni prima. Era questo intrico oscuro e zuppo di umidità il luogo che mi era appartenuto in modo speciale. Non ci veniva mai nessuno, perché d'inverno ero troppo spoglio ed estate ero invaso dalle zanzare. Solo una fanciulla indifferente alle punture poteva sopportarlo. Qui potevo giocare lontano da occhi indiscreti, passeggiare fantasticando ininterrottamente per ore. In un angolo buio c'era un pergolato malsano frequentato assiduamente da lumaconi neri. Là dentro trascorrevo pomeriggi interi a fare progetti. In quegli anni non facevo altro che pianificare. E seppure nessuno dei progetti si avverava, non era certo un problema. Soltanto immaginare il futuro era già la felicità. Per me questo angolo fuori mano è sempre stato un luogo meraviglioso e misterioso, dove i miei castelli in aria si allineavano luminosi uno dietro l'altro e dove mi accadevano cose splendide e bizzarre. Le ore che ci ho passato e le persone che ho incontrato qui erano piene di incanto. Così sono rimasto un bel po' a guardarmi intorno tutta contenta, dimenticando che nel mondo esistevano dei cugini. Quasi mi veniva da piangere per la gioia di essere tornata alla casa dei miei avi, la casa che sarebbe stata mia se fossi stata un maschio, che adesso era mia in virtù di mille ricordi, teneri, felici, orribili, che i proprietari non potevano nemmeno sognarsi di avere. Loro erano inquilini in casa mia. Ho abbracciato il tronco di un abete che grondava umidità. Ne ricordo ogni ramo, per ognuna delle centinaia di volte che mi ci sono arrampicata e sono caduta riempendomi di lividi e tagli. L'ho baciato con un trasporto tale che mi sono macchiata di verde il naso e il mento, senza che peraltro me ne importasse nulla. Anzi, ero una spericolata adolescente che godeva nell'insudiciarsi, non mi divertivo così da anni. Alice nel paese delle meraviglie, nel rimpicciolire dopo aver bevuto la pozione, non è stata certo più veloce di me nel tornare bambina appena varcata quella porticina magica. Ciò nonostante, le cattive abitudini si incollano alle persone con una persistenza tale che mi sono vista prendere il fazzoletto dalla tasca per ripulirmi il naso e il mento imbrattati in segno di benvenuto, con un gesto che non avrei mai sognato di fare nei giorni gloriosi. È stata la fragranza artificiale di violetta, di cui ero impregnato il fazzoletto a farmi riprendere coscienza, ma in un accesso improvviso di disprezzo, il disprezzo che ogni autentica fanciulla prova di fronte ai profumi, l'ho appallottolato e l'ho lanciato nei cespugli, dove immagino sia ancora. Lontano da me! Ho gridato. Via! Simbolo delle convenzioni, di schiavitù, del desiderio di compiacere! Via di qui, miserabile straccetto bordato di trina! Ero tornata talmente bambina nel giro di pochi minuti che non mi sono sentita neppure una sciocca. Da brava fanciulla non usavo fazzoletti, una selvaggia figlia della natura trova spregevole soffiarsi il naso. Benché ogni domenica la mia governante insistesse per darmene uno molto grande e rigido come uno stoccafisso, che riponevo ripiegato com'era nell'angolo più remoto della mia tasca, dove si compattava progressivamente per il peso degli oggetti che vi si trovavano, ovvero coltelli a serramanico. Ricordo che in seguito a ripetuti rinvenimenti domenicali del fazzoletto intonso per far posto al sostituto, ci accordammo per cambiarlo soltanto la prima e la terza domenica del mese, a condizione che le altre domeniche lo tirassi fuori dalla tasca e lo piegassi al contrario. La governante sosteneva che la parte esterna si sporcava a contatto con gli altri oggetti, perciò stava a me non scandalizzare i visitatori mostrando la parte sporca ogni volta che volevo soffiarmi il naso. Ma a me non viene mai da, replicai con sincerità prima che lei mi interrompesse con un brusco sciocchezza. Quando i primi brividi di felicità per il ritorno sono svaniti, l'assoluta immobilità del boschetto gocciolante ha cominciato a farmi paura. Tutto era talmente immobile che avevo timore a muovermi, talmente inerte che potevo contare le gocce che stillavano dal muro. Talmente silenzioso che trattenendo il respiro per ascoltare i battiti del mio cuore erano assordanti. Ho mosso un passo in direzione del pergolato ombroso e il fruscio dei miei vestiti mi ha pietrificato. La casa era distante soltanto 200 metri. Se in giro ci fosse stato qualcuno, sarebbe bastato il cigolio della porta e il mio grido di sdegno per il fazzoletto ad allertarlo. E se un giardiniere curioso, un cugino inquieto fosse emerso in quel momento dalla nebbia per pimbarmi addosso? E se Fraulein Wundermacher mi fosse arrivata alle spalle con passo felpato, attutito dalle calosce, e avesse disintegrato i miei castelli in aria con la sua solita trionfante esclamazione: «Ora ti tengo stretta!» Ma no, che idee balzane! L'imponente autoritaria Fraulein Wundermacher, l'arcinemica delle fantasticherie, la solidale di tutto ciò che praktisce, l'amante delle comodità, era morta da tanti anni ormai e molte altre governanti, talvolta tedesche, talvolta inglesi, più di rado francesi, si erano avvicendate al suo posto. In quel momento nel giardino ero un fantasma solitario. E dai, Elisabeth, mi sono detta con impazienza, non starei mica diventando sentimentale riguardo alla governante. Se pensi di essere un fantasma, accontentati almeno di essere uno spettro solitario. Vorresti forse che i fantasmi delle povere donne che hai tormentato risorgessero in questo luogo malinconico per perseguirti? E vorresti rimanere qui finché qualcuno non ti scopre? In questo modo, riconoscendo il rischio che correvo a indugiare ulteriormente, mi sono esortata a muovermi e ho imboccato il vialetto che porta al pergolato ombroso e poi alla parte principale del giardino. Mi sono mossa in punta di piedi, in allarme per il fruscio prodotto dalla mia sottogonna, ma determinata a vedere ciò per cui ero venuta, senza farmi intimorire dagli spettri. In quei momenti ho pensato con nostalgia alle corte, soffici e silenziose sottogonne della mia infanzia, alla comodità delle scarpe di tela con la suola di caucciù che mi permettevano di sgattaiolare silenziosamente ovunque volessi. Grazie a loro ho potuto correre silenziosa e nascondermi nei miei posti preferiti per rimanere ad ascoltare indisturbata i richiami delle governanti. Elisabeth! Elisabeth, tornate subito a lezione! Oppure, in tempi diversi, dove siete, sciocchina? E ancora, aspetta, vedrai quando ti prendo! Quando sentivo che la voce si avvicinava appena oltre l'angolo, mi spostavo silenziosamente dietro l'angolo successivo. L'unica persona che possedesse risorse sufficienti a contrastarmi era Fraulein Wundermacher, la quale scoprì che bastava munirsi di calosce per sorprendermi nel mio nascondiglio. Ne comprò un paio, smise di sprecare il fiato a chiamarmi e cominciò a pedinarmi silenziosamente, mentre convinta di essere al sicuro, me ne stavo comoda, persa nella contemplazione di uno scoiattolo di un pettirosso. Mi arrivava alle spalle e mi afferrava all'improvviso, causandomi scompensi nervosi. Così, mentre procedevo in punta di piedi nella nebbia, ho guardato indietro un paio di volte con inquietudine. Tanto il ricordo era vivido e ho sfiorato con la mano i ricci e i boccoli che compongono la mia frisure, come la chiama la mia cameriera, pettinatura che sottolinea l'abisso che mi divide dall'infanzia, benché tale gesto non sia servito a rassicurarmi dell'assenza della Fräulein. La governante, infatti, ricordare l'evento e parlarne mi dà grande angoscia, per assicurarsi che non le sfuggissi, un paio di volte mi aveva ghermito per la treccia come se fosse un guinzaglio. Mi aveva detto che in inglese la treccia si chiama pigtail, codino di maiale, proprio nel momento in cui stavo per fare un balzo e scomparire fra i cespugli, e mi aveva condotto a casa in trionfo, stringendo la treccia come se fosse una fune, borbottando e sorridendo tra sé particolarmente soddisfatta. Questa volta non mi scappi. Ora che ci penso, Fräulein Wundermacher possedeva un gran senso dell'umorismo ed era certamente una donna intelligente e capace, ma in quel giorno nebbioso di novembre ho desiderato che il suo fantasma non mi perseguitasse con tanta insistenza. Ho desiderato liberarmi della sensazione di averla alle spalle con le sue calosce e il braccio teso per agguantarmi. Sono arrivata al pergolato ombroso e nelle sue umide profondità mi è parso di vedere gli occhi del nonno che scintillavano nel buio. Ho fatto un passo indietro, con il cuore in gola. Era evidente che l'apprensione di essere scoperta dai cugini stava trionfando sulla mia salute mentale, poiché di mio non sono certo portata a vedere occhi dove non ce ne sono. Non essere stupida, Elisabeth, ha mormorato la mia anima con una vocina debolissima. Entra, vai a controllare. Ma io non voglio entrare per controllare, ho risposto. Tuttavia sono entrata, ho mostrato sufficiente coraggio e per fortuna gli occhi sono scomparsi. Cosa avrei fatto in caso contrario? Non riesco a immaginarlo. Dei fantasmi rido di giorno e li temo di notte, ma se ne incontrassi uno, credo che morirei. Il pergolato era in pieno sfacelo, invaso dalle muffe. L'aveva fatto costruire mio nonno e, come le altre costruzioni, aveva goduto di un periodo di splendore prima che limacci e bambini lo devastassero. D'estate il nonno ci veniva ogni pomeriggio a prendere il caffè, a leggere il Kraut-Zeitung e a farsi una dormita mentre tutti noi giravamo alla larga in punta di piedi e soltanto gli uccelli osavano cinguettare. Persino le zanzare che infestavano la pergola lo temevano e non osavano pungerlo. Aveva proibito alle zanzare di prendersi delle confidenze, per questo non lo pungevano. Così ragionavano. Sebbene nella pergola ci abbia giocato per anni dopo la sua morte, la memoria mi ha riportato ai tempi in cui quel luogo era di sua pertinenza esclusiva. Ferma nel punto esatto in cui una volta c'era la sua sdraio, ho sentito quanto adesso lo conosco bene, grazie alle impressioni che lasciò nella mia mente di bambina, impressioni di cui non sono stata consapevole per più di 20 anni. Nessuno mi ha mai raccontato di lui, morto quando avevo 6 anni, eppure da almeno 2 posso dire di conoscerlo perfettamente, grazie alla strana estate di San Martino, dei ricordi che vengono a farci visita nei momenti di pace, in cui, lasciataci alle spalle la nascita dei figli, ci concediamo infine il tempo per pensare. Certo, è un pensiero sgradevole, ma sano e seriamente inibitorio per un adulto, soprattutto per un genitore, sapere che i bambini, pur non capendo quello che vedono fare e sentono dire dai grandi, perché magari non gli interessa e poi lo dimenticano subito, tuttavia ne ricevono un'impressione che rimane per sempre celata nella loro mente. Un'impressione che però torna quando ormai sono uomini e donne adulti e li colpisce con nitidezza sorprendente e dolorosa, disperdendo il gregge delle loro piccole adorate illusioni. Per mio nonno nutrivo un rispetto misto a timore. Non era tipo da coccole, anzi era spesso accigliato, il genere di persona che si fa rispettare. Per giunta era un uomo giusto, lo sostenevano tutti, un giusto che avrebbe potuto toccare le vette della gloria mondana e diventare un grand'uomo se avesse voluto. Che avesse scelto di non esserlo era considerata prova convincente della sua grandezza, poiché era evidente che fosse troppo grande per poterlo essere nel senso più plebeo. Si ammantava della dignità, della riservatezza e delle potenzialità, perlomeno questo credevano le persone semplici intorno a lui, man mano che il tempo passava e lui non agiva. La gente deve credere in qualcuno e aveva scelto di puntare su mio nonno nell'età delle promesse, intorno ai 30 anni. Poi, per praticità, aveva deciso di non cambiare più idea. Il nonno dominava la nostra vita familiare, facendo in modo che ci comportassimo bene. Poi morì e noi fummo felici che fosse andato in paradiso. Era stato un bravo tedesco, quando un tedesco è un bravo cittadino lo è in modo assoluto, che si era attenuto alle regole, che aveva sostenuto il governo, coltivato patate da primo premio, allevato un numero imprecisato di pecore, che si recava a Berlino una volta l'anno alla testa di una processione di carri stipati di lana per venderla al wool market e poi faceva festa per qualche giorno prima di tornare a casa con gran parte dei guadagni, che andava a caccia il più possibile. Aiutava gli amici, castigava i figli, leggeva la Bibbia e diceva le preghiere e che era rimasto sinceramente stupito quando sua moglie ebbe la malaugurata idea di morire di crepacuore. Non ho la presunzione di spiegare una tale condotta. La nonna, naturalmente, avrebbe dovuto essere felice di ritrovarsi per le mani quel brav'uomo di suo marito, ma so che a volte un brav'uomo può risultare opprimente e averne uno in casa ed essere ogni giorno esposta allo splendore accecante della sua bontà deve essere un lavoro non da poco. Perciò, dopo avergli dato 7 maschi e 3 femmine, la nonna morì, come ho detto sopra, fornendogli l'ennesima prova, in quel caso assai singolare, di come sia impossibile fidarsi di una donna. L'episodio increscioso svanì rapidamente dalla sua memoria, aiutato da un evento prodottosi in contemporanea, la raccolta di una nuova varietà di patate di cui era giustificatamente orgoglioso. La chiamò Consolazione nel dolore e citò il versetto della Bibbia che diceva occhio per occhio, dente per dente. Dopodiché non accennò mai più alla morte della moglie.